Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a tutti, nuova puntata dal mondo della scuola. Ci avviciniamo alla fine della stagione, alla fine dell'anno scolastico, quindi è tempo di nuovo di parlare di orientamento scolastico. Ben ritrovato Giampaolo Alimede. Ben ritrovati a tutti, giovani presenti ascoltatori. E meno giovani, ma abbiamo più giovani con noi, due alunni di classe terza che sono Dennis e Camilla, e Giovannella che invece è di classe quinta, di diversi percorsi formativi all'Istituto Madonna del Grappa di Treviso. Benvenuti a tutti e tre. Grazie. Buongiorno, grazie. Con loro cosa facciamo, Giampaolo? Ma io direi che sarebbe, visto il periodo, ora di parlare di bilanci, partendo da quello che magari è stata la loro idea in terza media e di come si è sviluppata questa idea, di che cosa ne pensano alla fine del loro percorso. Partiamo da chi è in quinta, che ha fatto quindi già più anni alle spalle e ha davanti l'esame di Stato, Giovannella. Sì. Pensando alla tua terza media, quando avevi scelto l'indirizzo? Beh, non mi sono assolutamente pentita, anzi, all'inizio diciamo che è stata più mia madre a spingermi a scegliere il liceo, perché non avevo propriamente idea di quale sarebbe stato il percorso più adatto. Sapevo solamente quello che avrei voluto fare dopo, quindi il liceo era una tappa intermedia. Però non mi pento assolutamente, anzi sono contentissima della scelta che feci allora insieme a mia madre. Tu hai fatto il liceo della comunicazione, stai finendo il liceo, sì, della comunicazione, classe quinta B, quindi soddisfatta. Vediamo invece chi è più giovane, quasi a metà del cammino, in terza A, Dennis, che percorso stai seguendo? Amministrativo segretariale. Io sono in terza e all'inizio, quando ho fatto questa scelta, avevo pensato a più ipotesi, e quella che mi ha portato infine a concludere la mia scelta e quindi ad intraprendere questo nuovo percorso. Quindi sostanzialmente ti dai un voto positivo, sì, guardando tre anni indietro. Camilla, invece stai facendo quale percorso? Grafico multimediale. Sì, anch'io sono contenta di quello che ho scelto, perché comunque mi ha sempre appassionato la grafica e sì, sono contenta di essere arrivata fin qua. Quindi non avete mai avuto dubbi, nessuno di voi tre, di cambiare strada perché magari alcune materie non andavano, perché c'era fatica? Qua no. Qua? Assolutamente no. Nessun dubbio. Beh, mi pare molto interessante questa prima serie di riflessioni, no? I genitori che spingono e i ragazzi che, come dire, si fidano dei genitori, che è la cosa giusta tra l'altro, perché i ruoli sono questi, e alla fine però tutti questi tre ragazzi, sono, diciamo, soddisfatti del loro percorso. Direi che sono delle considerazioni interessanti. Quella di Dennis mi è piaciuta in particolare, perché ha detto, tra varie alternative, in sostanza, tra varie possibilità, alla fine ho scelto. E quindi dei tre è quello che ha messo l'accento su quello che è il significato della scelta. La scelta è una scelta se ho più opzioni, oppure è anche una scelta quella di avere un chiodo fisso, un pallino, un interesse particolare per cui ho scartato tutto il resto. Considerando l'età dei ragazzi, anche sapendo che sono giovani, è giusto che anche i genitori possano aiutarli se loro non hanno le idee completamente chiare, cosa che è normalissima. Giovannella infatti parlava della mamma. Giovannella era entusiasta quando l'ho invitata in radio, così come ha dimostrato di essere entusiasta di quello che ha fatto finora. Parliamo delle difficoltà, se ne avete avuto nel corso degli anni, è andato tutto liscio, quali difficoltà eventualmente avete avuto di vario genere in ambito scolastico e come o con l'aiuto di chi le avete superate? Ripartiamo da Giovannella. Beh, io all'inizio ho avuto tantissime difficoltà, perché le medie le ho concluse, però non sono stata assolutamente brillante, sono uscita con la media del 6, ma perché volevano liberarsi di me praticamente. Che hanno a calci, ecco. Esatto, a calci mi hanno mandato fuori. Però successivamente mi sono resa conto che magari anche l'ambiente, il fatto che avevo cambiato scuola, avevo altri insegnanti, sono riuscita ad adattarmi bene e non ho incontrato grosse difficoltà. L'unica difficoltà che ho avuto è stata quando ho fatto sono andata ospite in una scuola straniera e lì avevo difficoltà perché era tutto un altro metodo scolastico. però qui in Italia non dove ho avuto. Dove sei andata? In Austria, a Mittersil, al liceo di Mittersil per 3 mesi. E ho trovato che ci sono tante differenze, però in ogni caso non, grandi difficoltà non ho avuto, la fatica nello studio, però quella è normale. È normale, ben venga anche la fatica. Difficoltà per Dennis, problemi superati come? Un iniziale inserimento tra compagni che comunque non avevo mai visto, e per il resto dal punto di vista dello studio l'impegno c'è, però per il resto grandi difficoltà non le ho riscontrate. Camilla? Beh, allora, anch'io come Giovannella sono uscita dalle medie per fortuna, diciamo. Per spinta. Sì. Esatto. Però in questa scuola non ho avuto più di tante difficoltà, soprattutto nelle materie, perché basta applicarsi e comunque uno riesce a fare. Nessuno ha citato i professori, che di solito sono... Tra gli ostacoli, insomma, statisticamente sono tra i più presenti. Allora, non sono citati, ma sono presentissimi, perché se io esco con difficoltà e poi mi trovo bene, c'è qualcosa che, insomma, li chiama in causa, no? Ecco, allora, qua si aprirebbe un argomento vastissimo e dovremmo fare un'altra puntata. Però mi pare che il cambiare ambiente faccia bene, in sostanza. Ci sono due ragazze qui che hanno detto, cambiando ambiente, noi che siamo uscite con la spinta o con fatica, siamo rifiorite in un certo senso dal punto di vista intellettivo, dell'impegno e così via. Per cui i professori possono essere un condizionamento, come sono gli adulti, i genitori stessi, e come possono essere un condizionamento i compagni. Come ripeto, si apre un grande capitolo che magari affronteremo in un'altra puntata. Ecco, diciamo che poi la settimana prossima avremo altri tre studenti, per cui questo tema lo svilupperemo ancora. Intanto noi facciamo la nostra prima pausa, tra poco ancora insieme a Giovannella, Camilla e Dennis. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Thank you. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ancora insieme, puntata dedicata all'orientamento con il mondo della scuola, con Denis, Camilla e Giovannella, che sono due, Denis e Camilla di classe terza, Giovannella invece di classe quinta. In quinta, chiaramente, alla fine del percorso, ma anche in terza, se non sbaglio. Sì. Perché? Noi quest'anno abbiamo gli esami per ottenere la qualifica, che ci può permettere di entrare nel mondo del lavoro oppure proseguire con gli studi per conseguire ad ottenere un diploma. Quindi di quinta superiore. Il quinquennale, insomma. Esatto. Quindi in qualche modo tutti e tre avete un esame davanti. Ne parliamo dopo, alla fine. Intanto, dopo aver detto prima delle difficoltà, dei problemi, passiamo anche agli aspetti positivi. Nel vostro percorso dei 5 o 3 anni, la soddisfazione maggiore dal punto di vista scolastico? Giovannella. Allora, io personalmente ho sempre amato le lingue e mi sono resa conto che io faccio l'opzione linguistico nel mio liceo e sono riuscita a migliorarle molto proprio grazie alle possibilità che ho avuto con la scuola e sono assolutamente contenta di come sono migliorate. E studiando quali lingue? Allora, il tedesco per 5 anni, il francese 3 anni e poi vabbè l'inglese sempre 5 anni. E sono contenta di come sono riuscita a migliorarle. Poi anche l'italiano comunque, cioè che alle medie non era... Si dà per scontato, ma non è così scontato che si sappia scrivere e parlare in italiano anche a scuola. Infatti è andato bene anche con italiano, visto come mi era andato l'esame comunque delle medie. Lo verificheremo poi l'esame di Stato anche l'italiano. Ne riparliamo. Fa apposta anche per quello. Dennis, invece per te il ricordo più bello, la soddisfazione maggiore, se c'è stata oppure c'è stato tutto ordinario, tutto normale, niente di eclatante? Allora, soddisfazione dal punto scolastico ci sono state e ho trovato miglioramenti rispetto alle medie. Ho conosciuto persone fantastiche che frequento quotidianamente e con cui Hai spendo a che anche fare. Del tempo fuori scuola, usciamo insieme. Mm-hmm. Hai creato una compagnia. Sì. Camilla, disegnando. Io dal lato scolastico sono stata contenta di aver potuto studiare appunto e conoscere molte più cose riguardo la grafica, la fotografia e sì, questo. Ah, quella cosa che avevi scelto appunto con certezza. Guardiamo un pochino avanti adesso, poche settimane alla fine del percorso scolastico, poi ci sono gli esami. Che sentimenti, pensando al fatto che finirà una parte, un capitolo della vostra vita, per Giovannella chiaramente ci sarà sicuramente l'uscita dalla scuola, magari non a spinta questa volta, ma magari con più soddisfazione, con più forze proprie, mentre Denis e Camilla potranno decidere eventualmente di proseguire, ma in ogni caso si concluderà una parte, un capitolo. Che sentimenti ti suscita questo... Allora, sono sicuramente contenta perché io valuto di andare all'università e quindi avrò più libertà nello studio, nel scegliere cosa studiare, se frequentare o meno, però dall'altra parte ho paura perché sono tremendamente pigra e quindi ho paura che se nessuno mi martella tutti i giorni a studiare, poi non studio niente e rischio di combinare pasticci. Da sola non ce la faresti ad automotivarti? Non lo so, dipende dai giorni, dipende da come gira, quindi devo valutare un momento. Intanto per il momento l'unico sentimento che mi permetto di avere paura perché ho gli esami. E quindi tanto pensiamo a quelli. Il primo pensiero, insomma, tra poco. Sì. Denis e Camilla, sentimenti in vista di questo passaggio, insomma? Una tensione dovuta al fatto che siamo gli sgoccioli e quindi manca pochissimo tempo. Gli argomenti da preparare agli esami sono parecchi e diciamo che bisogna darsi una mossa e non perdere assolutamente nessun minuto della giornata, impegnandosi a studiare quotidianamente, insomma. Beh, di certo, di sicuro la paura di affrontare l'esame perché comunque non sarà una passeggiata e anche un po' di dispiacere nel lasciare comunque la scuola in cui mi sono trovata bene. Ecco, vedi, c'è l'amaro e il dolce, no, Giampaolo? Sicuramente è interessante perché tutti e tre hanno un po' di paura e diceva Messner, fa bene la paura. Noi lo conosciamo più o meno, insomma, che è questo grande scalatore di montagne. diceva che la paura è importantissima, perché chi non ha paura rischia di fare una brutta fine, quindi avere un po' di paura può essere molto positivo. E dopo la pigrizia si vince con l'entusiasmo, no? Come ti sono piaciute le lingue o come vi è piaciuto qualche cosa, l'entusiasmo vi fa superare anche queste pigrizie, queste, diciamo, mancanza di spinta verso fare il proprio dovere. Vabbè, comunque, insomma, mi sembrano tutte risposte e considerazioni molto molto positive. Se doveste adesso consigliare qualche ragazzo di terza media che ha già scelto, ma mettiamo che siamo nel periodo del primo quadrimestre, quindi voi che siete più grandi dovete dare qualche consiglio, avete, non lo so, cugini, fratelli più piccoli o comunque qualche ragazzo di terza media che deve scegliere. Voi avete detto prima, avevate già le idee abbastanza chiare, insomma, su quello che avreste fatto. Che cosa direste a un ragazzo di terza media o quelli che andranno in terza media l'anno prossimo dovranno scegliere? Allora, io consiglierei assolutamente di stare attenti ad ascoltare quello che gli insegnanti delle medie fanno come feedback, perché a me avevano consigliato di non fare assolutamente il liceo e invece mia madre si è impuntata dicendo che dovevo fare il liceo e sono contentissima. E quindi di stare attenti a seguire quali consigli, perché avendo troppe voci poi si rischia di fare la scelta sbagliata per cercare di assecondare uno o l'altro. E magari consolarsi che comunque quello che scegli adesso può servirti per il futuro, ma se in futuro cambi idea perché hai un'altra passione la puoi seguire se sei motivato, quindi stare attenti a quali consigli ascoltare. Grazie Giovannella per questi consigli. Camilla, Dennis, cosa vi sentireste valutare di dire? Valutare attentamente la scelta, non essere frettolosi, prendersi il tempo, insomma, neanche decidere all'ultimo minuto. Secondo me scegliere quello che si piace, perché alla fine andare a scuola e trovare un lavoro a cui non si prova molto interesse, non si riesce a portare avanti, al massimo se poi si scopre che non è quello che fa per noi, si può cambiare anno o cercare qualche corso, insomma. Il riorientamento, come abbiamo imparato a chiamarlo. L'ultima pausa, poi ancora insieme con le prospettive per il futuro. Dal mondo della scuola. Well, there's a feast for me, but it feast for me, or just a bad surprise? Should I have expected this? I just don't wanna know. And you made up the rules so that you win this game, but you can tell me what to do, 'cause I don't believe in you. What's left a sweet, sweet, sweet embrace, and you're a thousand miles away. Your arms are sweet, sweet, sweet embrace, and you're a thousand miles away. Yeah. L'ultima parte di questa puntata dedicata all'orientamento nel mondo della scuola, la prima di una coppia di puntate che ci porta in studio, grazie a Giampaolo Alimedi, alcuni studenti verso la fine del loro percorso scolastico. Giovannella in quinta, Dennis e Camilla invece sono in terza. Dicevamo, l'ultima parte con le prospettive per il futuro, progetti futuro, come si chiede agli attori, ai cantanti. Ecco, anche a voi facciamo la stessa domanda. Poi arriveremo a cosa farete da settembre, ci arriveremo dopo, ma intanto il desiderio più grande che avete adesso, a parte superare l'esame di Stato, Giovannella? Ma io voglio diventare giornalista, mi piace tantissimo scrivere. È una cosa che ho il pallino sin dalle medie, perché ho fatto un corso di giornalismo e mi sono innamorata dello scrivere. E tuttora, dicevi a microfoni spenti, segui il giornalino. Esatto, sì, curo il giornalino della scuola, che purtroppo non viene seguito, non c'è abbastanza interesse. Un'uscita periodica, cioè ogni tanto esce. Sì, nel senso, quando capita, per sbaglio, così, se capita di fare una puntata va anche bene, per quello che riusciamo a andare avanti. Però sì, io vorrei assolutamente diventare giornalista, e sia soprattutto scrivere più che televisiva, però bisogna vedere poi cosa riuscirò a combinare veramente. Questo è anche come si presenterà il mercato nei prossimi anni. Le dura. Questo è il tuo desiderio, Dennis? Dennis, allora, il desiderio dopo questo percorso? O in generale, insomma, a parte a me ha sempre appassionato il fatto di poter arredare gli interni. E mi piacerebbe proseguire dopo la quinta superiore un percorso che mi permetta di seguire questo mio sogno, sperando di raggiungere il mio obiettivo. Camilla? Io invece ho sempre avuto due passioni, ovvero la fotografia e il fumetto. Infatti mi piacerebbe comunque proseguire una delle due almeno. Cioè già ne fai i fumetti? Ad esempio, sì, qualcosina. Schizzo, sì, qualche schizzo. Qualche idea, va bene. Di cosa sei appassionata? È una domanda così extra. Fumetti che magari leggi o che ti piacciono? Io sono più per i manga, che sono appunto i fumetti giapponesi. E invece quelli tradizionali non ne leggo moltissimi. Cosa intendi per tradizionale? Topolino? No, tipo Tex. Ah, ok, yeah. Vedi, quelli dei nostri anni, caro. Sì, ma Tex tira ancora, che è una meraviglia. Va ancora bene. Allora, già Dennis ha detto, dopo la quinta, quindi mi pare chiara la tua intenzione, dopo l'esame di terza, di proseguire, perfetto. Camilla? Sì, anch'io pensavo di proseguire, perché è l'unica chance, insomma. Perché dal punto di vista lavorativo professionale non c'è molto. Non c'è per chi ha più esperienza, perciò per chi come me non ha esperienza non penso ci sia lavoro. Bene, quinta invece, già forse l'avevi accennato, la prospettiva è università. Sì, Giovannella. Sì. Devo decidere anche lì dove sbattere la testa. Quali sono le opzioni sul tavolo? Giurisprudenza o lingue? Sicuramente so la città, Bologna, però devo valutare la facoltà, quello è già più dura, perché bisogna sempre vedere le prospettive per il futuro, perché essere giornalista è un sogno, però guardando più alla realtà bisogna vedere se riuscirò o meno a diventarlo, e nel caso che non ci riesca, quale delle due facoltà mi può permettere di trovare un lavoro che comunque abbia abbastanza... cioè che abbia abbastanza sbocchi, e giurisprudenza forse ne ha di più, perché anche magari se conosci qualcuno riesce a entrare nello studio e quindi quello bisogna valutare. Lingue invece o interprete traduttore, però lì allora ti conviene fare un percorso diverso, altrimenti puoi andare a fare l'insegnante, però io ho una lunga dinastia di insegnanti in casa e sinceramente non voglio diventare insegnante. Puoi più, ecco. No, non ne posso più. E quindi preferisco passare a qualcos'altro. Benissimo, comunque si può diventare giornalisti anche a prescindere dal percorso di laurea, quindi sì, sì. Stai tranquillo, a meno che non cambino poi le regole nel corso degli anni, vedremo insomma attualmente così. Certo, poi bisogna fare la formazione permanente, questo è ovvio. Prima dell'ultima domanda, Giampaolo, un'impressione su queste aspettative? Sì, l'impressione è che siamo partiti da più giovani con un sogno e adesso il sogno comincia un po' a essere messo in crisi, no? Ecco, a me sembra, dalle esperienze dirette, dalle esperienze passate che si vedono, che si sentono, sono documentate, eccetera, che chi ha un grande sogno, se lo coltiva, riesce anche a realizzarlo. Quando cominci a metterlo in dubbio, magari, ecco, allora, secondo me, se uno ha un'idea, prendiamo il giornalismo perché è interessante per molte cose che poi diremo fuori orario con la Giovanella. Ecco, se io voglio, questo desiderio, ho queste caratteristiche, secondo me dovrei seguirle, perché i talenti sono alla fine quelli che contano. Allora, se io sviluppo i miei talenti, sono sicuro che li impiegherò, viceversa corro dei rischi. Vabbè, comunque questa è una considerazione che dopo ognuno prenderà come meglio crede. Ne facciamo tesoro e lo facciano anche i nostri ospiti. L'ultima domanda è sulla stretta attualità, quindi il prossimo mese e mezzo che vi vedrà impegnati con i rispettivi esami di Stato. Aspettative realistiche o desideri sull'esito, Giovanella? Beh, se dovessi proprio sognare, ma puntando tanto in alto, almeno un 80 spererei di riuscire a raccattarlo, però vedendo anche i miei risultati scolastici non credo, perché se in italiano riesco a dare di più dal punto di vista scientifico-matematico, per assurdo faccio acqua da tutte le parti, e quindi vedere che cosa riuscirò a combinare durante l'esame è tutto da scoprire, proprio perché ho questi problemi matematici. Scopriremo. Le simulazioni come stanno andando? Domanda di riserva, no, perché è meglio glissare. Va bene, sorvoliamo anche su quelle. Meglio. Il vostro esame di terza invece in cosa consisterà? In tre giorni di prove, di cui uno di questi sarà di prove pratiche, materie tecniche, uno culturale e uno orale, interrogazioni. Aspettative, Dennis? Sicuramente superare l'80 come Giovanella, e poi comunque si vedrà, si spera e si studia, ma cioè, potresti essere, cioè non è utopistico dire 80. No, penso di potercela fare. Va bene, Camilla? Io spererei sì di arrivare, si può anche appunto superare l'80, anche se la vedo dura. Pensate che vi possa servire questo numero 80, 85, 78? Ma tenendo conto anche che nel nostro indirizzo, quello del triennio, le materie che contano di più sono anche quelle professionali, quindi magari quelle che siamo un po' più portati a fare e quelle per cui studiamo maggiormente. E quindi è importante nel caso... Non tanto quelle culturali, che comunque sono importanti, ma soprattutto quelle pratiche. Quindi può servire, mentre sì. In prospettiva universitaria forse... Adesso sì meno, e no, per adesso fortuna. Meno. Però comunque in futuro, se cercherò lavoro e magari becco il datore di lavoro vecchio stampo che mi va a vedere il mio voto di maturità, lì posso rischiare di avere più problemi. Guarda, sono quasi esauriti qui, ecco. questo tipo di persone, ecco, davvero vecchio stampo. Mi consolo. Il nostro tempo è finito, ma con Giampaolo ci ritroviamo anche la settimana prossima, perché ha un'altra infornata di ospiti pronti che porterà. Intanto grazie, in bocca al lupo, Giovanella, Camilla e Dennis, e buona fine di anno scolastico. Grazie, arrivederci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.